Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio e buon 2016 da Andrea Ferro. Primo appuntamento del nuovo anno, ci occupiamo di sicurezza stradale, con il numero degli incidenti in calo, ma non quello delle vittime, secondo i dati diffusi da ACI. E in tema di prevenzione parliamo delle dotazioni diventate obbligatorie sui mezzi pesanti di nuova immatricolazione. In apertura ricordo che dal 1 gennaio, come ormai è diventata consuetudine, sono aumentati i pedaggi autostradali. Il rincaro medio è inferiore all'1%, con una punta del 6,5% sulla Torino-Milano. Ma attenzione, una parte significativa dei gestori non ha ancora ritoccato le tariffe nell'attesa dell'aggiornamento e dell'approvazione del piano economico e finanziario. Quindi occorre ancora qualche settimana per avere un quadro generale più attendibile sull'effettiva consistenza dei rincari dei pedaggi autostradali lungo la nostra rete. E sulle autostrade, come sulle strade extraurbane, veniamo così all'argomento al centro della puntata di oggi, gli incidenti risultano in calo. È quanto emerge dallo studio statistico di ACI relativo al primo semestre 2015. Secondo questi dati sono le strade urbane quelle più a rischio, dove cioè si registra il maggior numero di vittime e di feriti. E proprio per effetto di quanto avvenuto nelle città, l'indice generale di mortalità è salito. Qualche numero: nei primi sei mesi del 2015 sono avvenuti 84.994 incidenti con danni alle persone, circa 2.500 in meno rispetto allo stesso periodo del 2014. Le vittime sono state 1.596, 16 in più. Quindi, stando così le cose, diventa sempre più improbabile raggiungere l'obiettivo dichiarato dall'Unione Europea e fissato per il 2020, quando il numero le vittime della strada dovrebbe essere dimezzato. Per commentare e spiegare questi dati abbiamo in linea Lucia Pennisi, coordinatrice dell'area statistica di ACI. Gli incidenti sono ancora diminuiti leggermente, ma purtroppo aumentano i morti, ma purtroppo aumentano soprattutto nelle città. Sono le città che attivano questo trend. Infatti, sia sul sistema autostradale che sulle strade extraurbane principali, la mortalità continua a diminuire. E quindi un aumento di morti nelle città, i dati diciamo sono ancora dati preliminari e non abbiamo disaggregazione, ma in genere vuol dire aumento dei morti tra gli utenti vulnerabili. Ecco, come si spiega questo aumento degli incidenti sulle strade urbane? Diciamo, l'aumento in parte può essere anche dovuto alla ripresa della mobilità anche a livello urbano. Abbiamo sentore di questa ripresa della mobilità già dal 2014, sappiamo che si è rimessa in moto l'economia, si rimettono in moto anche la mobilità delle persone e i trasporti. Vi è poi un aumento dell'uso della bicicletta, per esempio, questo da una parte se incentiva diciamo, un mezzo di trasporto non inquinante che fa bene alla salute, però si tratta di utenti particolarmente vulnerabili, soprattutto quando si trovano poi nel traffico spesso caotico delle città italiane. Ora, tutti questi dati raccolti da ACI sono immagazzinati in un portale che è aperto a tutti. Sì, abbiamo lanciato questa novità del portale dedicato in parte ai dati dell'incidentalità, quindi incidenti mortali, morti, feriti, anche declinati in vario modo, tipologia di incidente, veicoli coinvolti, persone coinvolte sia per sesso ed età che per ruolo, cioè se conducenti, passeggeri o pedoni. E dall'altra parte poi un approfondimento sulla localizzazione sulla rete viaria principale che era diciamo il dato principalmente diffuso dall'ACI fino allo scorso anno, anzi fino a quest'anno anche su CD, ma abbiamo voluto semplificare l'accesso a questi dati per tutti, sia gli operatori, gli amministratori, gli studiosi, ma anche per tutti i cittadini che possono collegarsi liberamente al sito, è un sito a libero accesso, non occorre neanche la registrazione. Ricordiamo l'indirizzo del sito? Il sito è www.lis.aci.it. LIS è l'acronimo che sta per localizzazione incidenti stradali. Lucia Pennisi, coordinatrice dell'area statistica di ACI, grazie e buona giornata. Prego, buongiorno. Per prevenire gli incidenti, oltre alle corrette condotte di guida e allo stato e alla manutenzione delle strade, può contribuire in maniera sempre più significativa la tecnologia applicata ai veicoli in circolazione. Per i mezzi pesanti di nuova immatricolazione è diventata obbligatoria l'installazione di due nuovi dispositivi. Per spiegarci di che cosa si tratta è collegato con noi Massimo Condolo, giornalista ed esperto di sicurezza stradale. Il primo dispositivo si chiama, cito l'acronimo, AEBS. Cosa vuol dire e come funziona? L'AEBS è un aiuto alla frenata d'emergenza che in pratica si sostituisce alla decisione del guidatore nel momento in cui il sistema vede che il guidatore non è in grado di evitare un tamponamento. E si basa sui segnali del radar che è utilizzato per la CC, l'Adaptive Cruise Control, che misura in sostanza la distanza dal veicolo che precede e anziché fare come il cruise control normale che mantiene costante la velocità, mantiene costante la distanza dal veicolo che precede, quindi tipicamente mantenendo la distanza di sicurezza. Finora questi sistemi non avevano implementata la frenata d'emergenza. Con l'AEBS il veicolo è in grado di fermarsi in condizioni di sicurezza quando scopre un ostacolo fisso sulla carreggiata o un veicolo molto più lento che rischia di essere tamponato dal veicolo che stiamo guidando. Il secondo dispositivo di sicurezza invece riguarda in pratica il controllo della rotta del mezzo. È un sistema basato su una telecamera specifica che è integrata nella zona del parabrezza del veicolo che legge le linee di demarcazione delle corsie. Se noi non abbiamo inserita la freccia, quindi il sistema pensa che sia volontaria il sovrappasso della riga, questo sistema ci avvisa o con un avvisatore acustico o con una vibrazione sul sedile dell'autista dal lato in cui sta avvenendo il sorpasso della riga tratteggiato continua che sia, che il nostro veicolo sta per abbandonare la corsia. Quindi, ripeto, se non c'è l'indicatore di direzione, la freccia inserita, il sistema pensa che noi in quel momento siamo distratti e il veicolo stia andando alla deriva. Massimo Condolo, giornalista ed esperto di sicurezza stradale, grazie e buon pomeriggio. Buon pomeriggio. A Ravenna è stato attivato un nuovo corridoio veloce su gomma che, come gli altri già operativi, in tutto sono una decina, semplifica e velocizza il flusso delle merci abbattendo i tempi della burocrazia e garantendo standard di sicurezza elevati, come sottolineano in una nota all'Agenzia delle Dogane. Questo corridoio si allunga tra il porto di Ravenna e l'interporto di Bologna. Il via a questo nuovo fast corridor stradale è il risultato di una sinergia tra l'autorità portuale di Ravenna e alcuni operatori economici. Dal porto di Ravenna a quello di Trieste, dove nei giorni scorsi ha attraccato una nave da 11.660 TEU. Si tratta di un record. Finora mai una porta container di tale capacità aveva fatto scalo in un porto dell'Adriatico, così riferisce in una nota l'autorità portuale di Trieste. E parliamo ora del SISTRI, il discusso sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, uno strumento di fatto mai partito. Con il mille proroghe, il governo ha rinviato di un altro anno l'operatività del sistema e quindi per il 2016 ha sospeso le sanzioni. Il provvedimento non dice nulla invece a proposito della sospensione del pagamento del contributo a carico delle imprese di autotrasporto, come sul recupero delle quote pagate in passato. Su questi punti da tempo le associazioni di categoria sollecitano un intervento del governo. In chiusura ricordo che in base al calendario dei divieti 2016 i mezzi pesanti non potranno circolare dopodomani, giorno dell'Epifania, dalle 9 alle 22. Hashtag autotrasporti finisce qui. Vi ricordo l'appuntamento del sabato 13:15 con Container, l'approfondimento settimanale che Radio 24 dedica al mondo dei trasporti e della logistica. Grazie per l'attenzione. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag autotrasporti.